Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Uffici presi d'assalto, tribunali sull'orlo del caos. Ecco i primi risultati del pasticcio dei certificati antipedofilia. Ma cosa è successo? Il 4 marzo scorso il governo ha ratificato un decreto legislativo secondo il quale i datori di lavoro devono richiedere il certificato penale del dipendente che avrà a che fare con i minori. Questo per tutelare i minori stessi da abusi e sfruttamenti sessuali. Il problema è che non sono state chiarite molte cose, con il risultato che gli uffici giudiziari sono stati presi d'assalto. I tempi sono strettissimi e soprattutto non se ne capisce l'oggetto e non se ne capiscono le forme di attuazione, perché apre scenari di incongruenza e di schizofrenia con le leggi attuali. Penso ad esempio alla privacy, a quello che il datore di sapere è, diciamo così, tenuto a conoscere dell'aspirante dipendente o dell'aspirante collaboratore. Avevamo promesso che saremmo tornati sulla vicenda controversa, per alcuni versi anche molto grottesca, del certificato antipedofilia. Ricordo, perché la cosa la tirammo fuori una trasmissione qualche giorno fa, un paio di giorni fa, è uscito un decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014, attuativo di una direttiva comunitaria che era relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile. Il Ministero ha pensato bene, ce l'ho qui davanti a me, il Ministero della Giustizia, c'è l'ufficio legislativo, ci sono tutte elencate cosa prevede questa norma qua. Prevede che tutte le persone che svolgono attività professionale o anche volontaria, perlomeno così diceva il decreto, poi non so se è stato cambiato qualcosa, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere al lavoratore un certificato penale al casellario giudiziale, per capire che non è stato mai condannato per reati di pornografia minorile, pedofilia e via dicendo. Il datore di lavoro, se non lo richiede, è soggetto a una sanzione di 10.000 a 15.000 euro. Io ero anche spaventato, perché anch'io ho un educatore che si occupa di mio figlio, se ne occupa tutti i giorni, è un mio dipendente, e quindi gli ho domandato: come, tu l'hai fatto il certificato antipedofilia? Ma guardato come se cascasse dalle nuvole, ma giustamente. Per amore di precisazione, molti si sono preoccupati. Improvvisamente questo decreto, se nella sua attuazione fosse proprio alla lettera, riguarderebbe preti, catechisti, suore, educatori, allenatori sportivi, boy scout, insegnanti, ma anche maestre d'asilo, anche bidelli, bidelle, anche autisti di pulmino, insomma tutti quelli che hanno comunque a che fare con dei bambini, con dei minori, devono produrre un certificato del casellario giudiziale in cui c'è scritto non sono stati condannati per reati di pedofilia. Qual è il problema? Primo, ci vuole un botto di tempo avere un certificato e costa anche soldi. Seconda cosa, il certificato vale per 6 mesi, quindi ogni 6 mesi riproducono il certificato. Terza cosa, non abbiamo ancora dei casellari così organizzati per darti un certificato specifico sul reato. In realtà il lavoratore dovrebbe produrre un certificato dove è scritto tutta la sua storia, per assurdo, anche se è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, per truffa, per emissione di assegni falsi, tutti i reati che comunque hanno un peso, non è detto uno debba riferirli quando offre un lavoro. Ci eravamo sentiti noi qualche giorno fa con alcune persone, dal punto di vista normativo, dal punto di vista delle associazioni di volontariato che si erano terrorizzate. I dubbi, mi sembra che oggi che scade questo termine, quindi qualcuno comunque deve provvedere, sono molti. Uno dei dubbi che sono stati sollevati sono quelli di Massimo Di Menna, segretario della UIL Scuola, che ha fatto una dichiarazione a Lanza in cui si dice che i suoi iscritti naturalmente da venerdì erano molto preoccupati. Massimo Di Menna, buongiorno. Buongiorno. Come l'avete messa poi? Come la state vivendo? Come la state organizzando questa vicenda del certificato antipedofilia? Che poi, detta così, fa anche sorridere. Sì, dopo la dichiarazione, la nota del Ministero degli Affari di Giustizia, la questione si è un po', diciamo, chiarita, nel senso che tutti gli insegnanti e il personale che lavora nella scuola, che è di ruolo, che è personale stabile, ha già presentato all'atto dell'assunzione tutta la certificazione del casellario giudiziario. Sì, abbiamo scoperto noi 3 giorni fa che fino agli anni 70 le maestre devono presentare anche la Wasserman, l'esame per la sifilide. Non ci siamo fatti mancare nulla. Certo, non ci siamo fatti mancare nulla. E quindi tra l'altro c'è l'obbligo, soprattutto con autocertificazione, che se c'è un cambiamento nel casellario giudiziario, l'insegnante lo deve comunque comunicare alla quindi scuola. In sintesi, ma questo cos'è? Una nota, diciamo, che a integrazione del decreto? Dove sta scritta questa? Lei va e viene purtroppo, se deve star fermo. Si capisce meglio con questa... Se si ferma un attimo con la macchina se sta guidando, perché sennò vai e viene, non la sentiamo. Dobbiamo richiamarla. Il primo problema è che questa normativa l'Europa ci ha chiesto di attivarla dal 2011, abbiamo scoperto. Poi improvvisamente abbiamo visto che il 22 marzo è uscito sulla Gazzetta Ufficiale la norma e il recepimento, e entro il 6 aprile tutti quanti dovevamo attuare queste disposizioni. Per il volontariato è stata una sorpresa terribile, perché se siamo d'accordo sulla ratio siamo costretti a provvedere in tempi strettissimi a fare una cosa vastissima con costi rilevantissimi. Abbiamo fatto i conti, alcune associazioni della LILT per esempio, che opera in ospedale con i minori, con i bambini, dovrebbe tirar fuori circa 7.000 euro per un anno per questo tipo di attività. È una cifra. Ecco, io ho davanti a me la nota di chiarimento sui tempi di rilascio certificati al casellario giudiziale, secondo il decreto legislativo 39 del 2014, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale. Non mi sembra di organizzarmici molto, mi sembra che entri nell'ordine delle idee che al momento si possa anche procedere con una autocertificazione, come aveva detto da noi l'avvocato Giuseppe Vaciago soltanto 3 giorni fa. Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. È partner dello studio Rep Legal, esperto in diritto penale delle nuove tecnologie. Tu hai avuto qualche feedback in questi giorni rispetto a questa assurdità normativa di cui ancora non riesco a capire bene esattamente cosa dovranno fare questa mattina le persone per non avere l'incubo della sanzione di 15.000 euro? Sì, direi che cerco di chiarire, di completare quello che aveva cercato di dire Massimo Di Menna, che purtroppo poi è andata via la comunicazione, quindi non abbiamo sentito completamente tutto. E chiaramente la nota, e devo dire anche forse grazie a te Gianluca e tutti quelli che si sono attivati per chiedere chiarimenti in maniera formale o attraverso gli organi di stampa, ci aiuta non poco, nel senso che, cerco di riassumere, prima di tutto non tutti soggetti, ma soltanto i neoassunti devono portare questo, si deve richiedere il certificato, perché non devono portarlo loro, ma il datore di lavoro. Cioè chi ha assunto da oggi o chi ha assunto nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, ecco questo vorrei capire. A me sembra quelli che vengono assunti da oggi, cioè da oggi. Quando è in vigore il... Non è retroattiva. Non è retroattiva, quindi noi abbiamo l'applicazione che è dal 7 aprile, quindi tutti ne assunti. Questo è un cambiamento radicale rispetto a quello che pensavamo prima nella lettura della norma, e questo ci aiuta non poco. Poi, per tutti i soggetti che ovviamente si trovano in difficoltà, può, e questa è un'altra nota di chiarimento importante, valere, come dicevi tu giustamente, l'autocertificazione. L'avevi detto te l'altra volta, sei stato il primo a dirlo, guardate che c'è un istituto ai termini di legge, non si autocertifica, voglio vedere cosa dicono poi. Sì, direi che poi è un'autocertificazione che appunto permette di poter entrare, e come dicevi giustamente tu, perché la cosa che dici correttamente, poi smetto di fare piangere se non parli con me, ma hai detto una cosa giusta dal punto di vista giuridico, cioè guarda che così possono chiedere tutti i reati. Il fatto invece di avere l'autocertificazione filtra i reati che non la tengono con quelli della pedofilia oppure appunto di abusi sui minori. Quindi io sono stra favorevole all'autocertificazione, per ora però appunto è soltanto utilizzata come momento temporaneo in attesa che si riesca comunque ad ottenere il certificato del casellario giudiziale ai sensi della legge. Quindi tranquillizziamo chi si è fatto prendere dall'angoscia, perché può fare l'autocertificazione e con calma, non troppo mi viene da dire, ma comunque con i tempi giusti fare quella... Cosa dovrebbe scrivere? Scusami, così facciamo anche un servizio, visto Giuseppe Vaciago sull'autocertificazione. Certifico, non sono stato mai condannato in forma definitiva, questo bisogna mettere secondo me, per i reati che riguardano la sfera dell'abuso sui minori, della violenza sui minori, la pedopornografia. Sono fuori Italia addirittura, sì. Quindi non ho l'elenco esatto, ma il 609, c'è un elenco di reati, vi elencherei direttamente proprio tutti i reati che sono presenti nella norma. E poi quello che hai detto è correttissimo, cioè definiti in modo irrevocabile, cioè quindi, perché il casellario giudiziale non è il certificato dei chiari dipendenti, quindi tutto quello che è in corso non va di dichiarato, ma soltanto ciò che è stato passato, appunto, ciò che è passato con sentenza in giudicato. Quindi diciamo che anche questo potrebbe essere un consiglio utile. Insomma, in definitiva io sono un po' più tranquillo, rimangono dei punti di domanda ancora rispetto a questa situazione. Quello innanzitutto forse dell'invasività di questo certificato che può essere chiesto dal datore di lavoro, e non mi si venga a dire che, perché poi si potrebbe dire, ma chi faceva il concorso pubblico lo doveva già presentare, ma era una mia precisa scelta quella di presentarlo, volevo fare il concorso pubblico. Adesso in automatico su molte altre categorie di lavori, di lavoratori, non soltanto quelli del pubblico impiego, viene richiesto dal datore di lavoro, che magari un domani potrebbe fare delle valutazioni, delle speculazioni rispetto a questo tipo di certificato. Ultima cosa, poi mi taccio, il volontariato, che è un altro tema che aveva, diciamo, preoccupato in molti, anche il servizio che hai lanciato prima, non è più obbligato a questo tipo di certificato, perché non ci sarebbe un lavoro dipendente e quindi tutti i volontari non devono presentare questo certificato. E mi sembra che anche i catechisti, qualcuno legato comunque all'aspetto, diciamo, ecclesiale della vicenda. Sì, infatti tu avevi citato le suore adesso secondo me con questa nota di chiarimento non devono più, appunto, non sono più soggette a questa normativa. Sì, ti dirò un'altra cosa, visto che stiamo a spaccare il capello, a che piffero serve più questa norma? Se escludi grandi categorie, che sono anche grandi bacini comunque di abuso, come tutti gli educatori sportivi, i volontari, le suore, i frati, monache, preti, via dicendo, è inefficace, allora è ridotta soltanto a un campione piccolissimo, chi da oggi sarà assunto? E gli altri tutti a Disneyland? Se è così, Ma poi soprattutto, se io adesso voglio fare il penalista quale sono, ma magari mi sbaglio, ma dico, ma se io volessi veramente commettere questi reati, non mi conviene magari entrare in una piccola associazione che ha meno controllo, dove magari anche la mia identità viene verificata in maniera più sommaria, ma non perché ne faccio una colpa, ma perché anch'io sono presidente di una LUS, ho tante attività da svolgere, è più difficile il controllo che invece per esempio in una società oppure in un ente pubblico dove invece i controlli sono molto più severi. Quello ti dico io, metti per assurdo una persona che ha il preciso scopo di andare a raccattare bambini, hanno appena arrestato un diplomatico italiano in un paradiso sessuale con tre bambini, quindi adesso non voglio azzardare, però vedi, accade che la gente si vada a cercare i luoghi per soddisfare la propria tendenza. Logicamente questo gli permette un ampio margine di selezione, vai a fare l'educatore volontario, figurati dove c'è bisogno per educare i bambini, portarli a fare le passeggiate, fare attività sportive, nuoto, ginnastica, judo, lotta greco-romana, figurati, è il paradiso. Mi sembra questa norma, in realtà la sua efficacia si è limitata quasi a nulla, mi sembra più una sorta di radicale ed esteriore maniera per dire abbiamo usato il pugno duro, mio parere. No, ma condivido, è solo una cosa all'italiana, cioè siamo partiti con una norma che leggendola così com'era, magari è colpa mia che l'ho interpretata male, sembrava severissima, però da un lato aveva appunto questa funzione comunque di maggior controllo e maggiore inseverimento. Adesso, ripeto, un po' all'italiana, con questa nota di chiarimento l'abbiamo ammorbidita tantissimo, quindi c'è molta più serenità per chi deve adempiere, ma forse proprio la finalità della norma è un pochino lasciata desiderare, si è un po' persa per strada, quindi questo sono d'accordo con te, Gianluca. Grazie Giuseppe Vaciago, ci fermiamo un istante per il traffico. Melog, cronache meridiane. Le associazioni e federazioni che lavorano con minori in fretta e furia, c'è tempo fino a domenica, devono mettersi in regola con le norme antipedofilia. L'Europa richiede il certificato penale alle persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. 800 24 0024, abbiamo capito, grazie anche all'avvocato Vaciago, che in realtà rispetto al panico di venerdì, con qualche piccolo correttivo, beh, insomma, si può dormire un po' più tranquilli, può dormire più tranquillo chi in buona fede era preoccupato perché il suo lavoro questo è, ma dorme anche più tranquillo chi fa il cacciatore di bambini, ha capito bene qual è la direttiva in cui muoversi più tranquillamente, può andare a fare il volontario, può andare a fare l'istruttore in qualche gruppo di volontariato, nessuno gli chiederà mai nulla, può continuare a fare le sue cose. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sono in linea? Sì, avvicini il telefono però, che non la sento molto bene. Senta, volevo dire semplicemente una cosa, se il fine è preservare i minori. La legge va bene, se il fine è uno scopo, diciamo, per soldi è diverso, perché si può fare benissimamente un'autocertificazione. E poi nel caso... Ma puramente l'aveva detto l'avvocato Vaciago che si può fare la certificazione, quindi l'abbiamo detto, c'è l'autocertificazione che uno attesta, anzi è molto più selettiva, che su quei reati non è stato mai condannato. Quindi questo si rischia molto, un'autocertificazione falsa è un atto penalmente perseguibile, quindi bastava dall'inizio pensare questo. È la cosa su cui siamo perplessi, che in realtà questa autocertificazione non sarà richiesta a tutti. E anche l'autocertificazione non è che poi ci garantisca al 100%. Ci sembra un po' che sia stata un grande dispendio di fuffa per arrivare poi a pochi contenuti reali concreti, pochi vantaggi. Qualcuno sì, ma non poi così da quanto si pensava all'inizio, per i bambini che veramente sono più tutelati. No, Gaetano, lei come la pensa? Sì, però la differenza è un'altra, che praticamente il tribunale che sta facendo una causa per pedofilia a qualcuno, o a dei carichi pendenti, o casellario giudiziario, può avvisare benissimamente lo Stato. No, non può, finché la persona non è condannata, siamo in uno Stato di diritto, in forma definitiva, nel casellario non può uscire questa cosa, non si può chiedere. Io finché non ho tutti le varie fasi processuali, io non sono colpevole, sono presunto innocente. Sentiamo Sabrina. Buongiorno, salve. Sì. Volevo dire, io sono un medico, sono anestesista rianimatore. Mi è capitato, e tra l'altro sono anarcho-comunista, anarcho-comunista? Sì. E ma cosa? Vabbè sì, fa piacere, ma non è che sia una cosa. Non è un reato essere anarcho-comunisti, penso, non lo so. No, non lo è. Perché mangia i bambini in questo senso? Non lo so perché. No. Non li mangiavo, sono dieta. E allora qual è il problema? Il problema è, no, appunto, non ho un problema di giustizialismo o altre cose del genere, appunto, per indole politica. Ma il discorso è, io ho fatto concorsi nel pubblico e per l'assunzione mi è servita la certificazione del casellario. Ma penso che a tutti, quando uno fa un concorso pubblico, questo serve. 10 minuti di impegno, Tribunale di Milano, non è il più piccolo del mondo, e non mi è costata una follia. È chiaro che per i mestieri sensibili può servire, ma anche per chi lavora in posti sensibili o con soggetti sensibili. Lo sa qual è il problema? No, il problema, Sabina, che improvvisamente una massa di migliaia e migliaia di persone nel giro di una settimana, perché è stato detto in una settimana, si è trovata la necessità di andare a chiedere questo certificato e i casellari si sono intasati. Poi molti sono rimasti abbastanza perplessi, perché veramente sono tante le persone. Pensi quante persone in Italia si occupano a tutti gli effetti di avere, diciamo, professioni che hanno contatto diretto con bambini. Questo è stato un po' il problema. L'intempestività, una cosa che hanno avuto 2 anni per ragionarci, poi la norma prescrive che in una settimana lo mette tutti in regola. Io trovo d'accordo per lavori particolarmente sensibili che sia richiesto. Io penso averlo anche prodotto a mio tempo per una domanda, un concorso, ma parlo roba di 30 anni fa. Serve sempre il casellario. Grazie Sabrina, abbiamo recuperato Giuseppe Di Menna, buongiorno. Buongiorno, sì, ero scusa, ma ora in treno. Ah, era in treno. Stavo dicendo che per la scuola deve essere richiesto questo certificato solamente ai supplenti temporanei che non sono nelle graduatorie, quindi a coloro che non hanno già rilasciato. Perché gli altri già l'hanno rilasciato, sì. Gli altri hanno già tutto a posto. Poi l'altra novità è che nei casi in cui ci sono delle persone che vengono assunte dalla scuola per pochi giorni, per esempio per accompagnare i ragazzi in delle visite di istruzione, per studiare delle erbe, sono degli esperti, in questi casi, mentre prima non era previsto, adesso c'è una maggiore tutela perché viene previsto per questo personale l'obbligo di questo certificato, che può essere richiesto anche direttamente dal preside, questa è un po' la novità. Quindi la questione. Però non mi sembra una cosa drammatica in questo caso, sinceramente, è logico. No, la cosa drammatica era sorta per tutti i capi di istituto, circa 9.000 scuole in Italia, questo. Che pensavano di dover chiedere i certificati per tutti i 600.000 insegnanti e a fronte della multa che gli riguardava di 15.000 euro. Ecco, e lei pensa soltanto gli insegnanti, le pensi le altre categorie, le altre categorie investite, gli allenatori sportivi, cioè erano si parla di milioni di esseri umani che sono impegnati in questa cosa, no? Sì, insomma, la norma di per sé, diciamo, tra l'altro la norma prevede anche del aumento delle pene per chi si macchia di questi reati, quindi è una direttiva europea che certo non è la soluzione del problema, ma dà un riferimento quadro di maggiore tranquillità. Comunque mi dia atto, Massimo Benda, abbiamo fatto bene fare un po' di casino una settimana fa, perché sennò oggi state ancora lì col patema d'animo per capire cosa dovete fare, quindi abbiamo capito che se ne esce in qualche maniera, in maniera non troppo dolorosa, non troppo faticosa, e siamo contenti di aver fatto il nostro lavoro. A domani.